Stiamo registrando, siamo in diretta, dovremmo. Volevo soltanto dirvi che sto guardando un flaccone di ammucchina da quant'è? Dove c'è scritto? Da 500 ml, se volete sono... Siamo intorno ai 500 euro. Vabbè, se ci ascoltate sono 4,50, dai. Partiamo con la puntata, su. Se devo mettere l'enfasi, va puttane, cazzo. Questa trasmissione ti piacerà, di sicuramente, al certo per certo. Cala la notte, riprende la trasmissione. Seconda stagione, studio si conta quattro persone. Vintrottina, Marzio, Sub-Zero, benvenuti. Entri per la vostra lezione settimanale spiegata in versi. Sei tempo, entri, uno, tre, cinque, nove, mandala. E con la flemma è tutta sapienza di Piero Angela. Fan battere sui quarti il cuore e poi la pancia. Smetterà di brontolare come una banda di cani di guardia. Dalla DAB alla Z di Zampa, passando per la P di Sean, di strada ce ne sta tanta. Quindi non saltare una puntata e segui sta banda di notturni ascoltatori della saga doppia H. Attacco un promemoria dopo la sigla. La memoria diventerà pro con l'hip hop, con uno schiocco di dita. Se non sciocco, se non segui sta saga figa, sintonizzati che non è una sagra, non c'è la fila. No, era il zero, non è il questa non ce la metti, pezzo di merda. Eh no, che non ce la metti, pezzo di merda. Molto bene, molto bene. Per ora siamo in due, ma stiamo aspettando anche Sub-Zero e Tina, che dovrebbero arrivare a momenti. Ma Sub-Zero è sempre in ritardo, quindi sì, siamo abituati. Invece noi siamo sempre in ritardo, quindi siamo abituati. Perché siamo ritardati, capito? Ah, sì. No, oh sì, io sì. Io assolutamente sì. Ho detto siamo, Davide. Sì, ok, oggi è buono. Ciao a tutti! Siamo tornati. La puntata è appena finita, è stato bellissimo tornare con voi, ciao. Era una vita che non venivo e mancava un sacco la sensazione della radio. Allora, tra l'altro questa mi puntata... sa che ho un volume fortissimo, sì, mi sento fortissimo. Il tuo microfono è questo, siamo... Vabbè, forse le cuffie sono alte. Sì, è questo il tuo microfono. Ok, sì, no, va bene. Vabbè, non ti vedo. Oddio, sì, alcune respari. Esatto. Vai adesso? Ok, no, molto meglio, molto pure meglio. Un po' alto. Ok. Oggi è una puntata molto triste. Sì. Perché non abbiamo i beat di sottofondo, quindi parleremo con un silenzio tombale di sotto. Ed è cioè, brutto. Se vuoi posso fare tipo ullala. Sì, mentre io parlo tu. Ullala. Esatto. Volendo. Inventiamoci qualcosa, vabbè, di qualcosa nel frattempo. Ah, allora, oggi abbiamo deciso di affrontare un tema di cui non si sente parlare praticamente e la cosa un po' ci scandalizza perché è piuttosto peso, che è il coronavirus, scherzo. Oggi parliamo hip hop e virus. No, non è vero, non è vero. Sì, in realtà abbiamo cercato virus, di guardare questo tema del coronavirus che sta veramente mandando nei matti la popolazione. Da un punto di vista un pochino diverso, cioè vederlo come, ovviamente, anche scherzosamente, come una sorta di complotto, no? E quindi abbiamo scelto di basare la nostra puntata su tutti quei, fra virgolette, complottismi, ma nel senso che poi alla fine non si sa mai in realtà che cosa c'è dietro, viviamo un po' in un mondo distorto dove ci raccontano delle cose, i media ci... come si dice... C'è sì, Mars che sta cercando di fare della musica di sottofondo col telefono. I media che ci distorcono completamente la percezione di quello che succede. E tanti artisti in realtà parlano di questa cosa. E quindi noi abbiamo cercato di raccoglierne il più possibile. Sì, entra, ora entra, lo sento in cuffia, sì. Aspetta. Vabbè, sì, cazzo, lasciamolo qua per un po'. Comunque un po'. Ci fa compagnia a noi. Sì, allora, adesso ve l'ha spiegato bene Vintro. Adesso vi spiego com'è andata davvero. Ragazzi, su cosa facciamo la puntata? Boh, non lo so, nemmeno io. Pensiamoci, ci pensiamo. Cavalchiamo l'onda del coronavirus e facciamo una puntata sui complotti, così distruggiamo questo panico che si è andato a creare nei supermercati. Ma la cosa più bella in realtà, io ho letto delle cose bellissime della mamma di Mars e delle sue preoccupazioni da... No, no, era mia sorella. Ah, della sorella. Vabbè, sì, comunque sì, ho assistito anche a una telefonata magica fra la mamma di Mars e Mars di... Sì, raga, tutto è... Mia mamma è preoccupata, vedete che lei... Io sono in Siberia, lei abita alle Canarie. No, aspetta. alle Canarie, che sono quelle isole presenti vicino alle Canarie, ma in realtà sono nel triangolo delle Bermuda, perché nessuno sa da dove vengo. Questa è la verità. Insomma, per iniziare questa puntata scegliamo il primo pezzo, almeno vi introduciamo un pochino a questo magico mondo in cui ci siamo proiettati questa sera. Ok, mettiamo, che mettiamo? Scelgo io? Scegliete, io. Vai, okay, c'è metto anche il mouse in mano, quindi... Cioè il topo in mano. Yes, ci sta. Ragazzi, allora, cominciamo con cosa c'è che non va di Mistaman. Dovreste conoscerlo come pezzo, è vecchiotto, cioè qua parliamo del 2008, se non ricordo male, quando uscì Anni Senza Fine. Questo pezzo più o meno vi fa capire di cosa vogliamo parlare, perché in questo pezzo si analizza particolarmente una situazione di panico come questa, dove le notizie vengono gonfiate, dove la gente non si informa e dove... Aspetta, come si dice? Proprio ho usato questo termine mille volte questi giorni, adesso non mi viene. Non panico emotivo. Psicosi collettiva, Psicosi collettiva, ho detto tutto. Ora parte il pezzo, il telefono mi sta squillando, è mia mamma, parte il pezzo, che io chiudo i microfoni. Il coronavirus. Ciao ragazzi. C'è migliore schiavo di chi si crede libero. Non posso liberarti, son qui solo per dirtelo, perché noi ci vediamo ai TG, perché ci dicono. Non posso spaventarci così, per me è ridicolo. Scusi, hai paura di perdere il lavoro, hai paura di rimanere solo, hai paura perché han paura loro, hai paura di avere paura di prendere il volo. Il terrorismo non inizia quando esplode la bomba, ma quando esplode la notizia bomba. Ricorda ogni volta che la pompano e la mandano in onda, è come se esplodesse ancora una volta. Immagini, stragi, disastri naturali, catastrofi, strazi di madri. L'ascolto va su, ora il pranzo non mi va giù. Non si distingue la realtà da un film di Hollywood. Sì, ti stanno dicendo, sì, restare attento. Cosa succede là fuori? Scritte cubitali sui giornali, nelle mani degli editori, che c'è di vero là fuori? Com'è che i giornalisti mentono e poi credono a quello che leggono? C'è un mondo intero là fuori, ma un inferno che ora brucia dentro nello schermo dei televisori. Sì, ti stanno dicendo, sì, restare attento. Consumatore migliore di uno insicuro, c'è una condizione peggiore di una senza futuro. Se sei il creatore della tua prigione, buttaci il muro, è la reazione per la rivoluzione. Ne sono strassicuro. Così hai paura di uscire fuori al sole, hai paura di dir la tua opinione, hai paura di aiutare le persone, hai paura di avere paura di essere inferiore. Il pessimismo è un riflesso indotto, se ti senti perso in un bicchiere mezzo vuoto. Se adesso penso che il bicchiere è mezzo pieno, vorranno darmi a bere che però è veleno. Il terrore del lupo non ti fa uscire dal gregge, l'approvazione del gruppo comunque non ti protegge. Meglio sentirsi perduto più che sentirsi alle strette, minacciati da bugie maledette. Sì, ti stanno dicendo, sì, restare attento. Se vuoi città più sicure, serve un nuovo governo. Per la difesa delle nostre tradizioni, cultura. Noi siamo anche il partito, però, che ha sostenuto e sostiene la necessità di un'Europa forte, armata, finalmente indipendente, di un'Europa che debba trovare la sua dignità militare. Noi dobbiamo davvero portare a compimento quella messa in sicurezza. Approvate il progetto di videosorveglianza delle aree urbane. Ci siamo, ok, ci siamo, se sentite quattro... bordello sono arrivati anche gli altri due. Se urlate vi sentite buonasera. I microfoni. Niente, cioè, raga, mo... sentitevi, passiamo un altro pezzo, così parliamo con gli altri. Poi ci organizziamo. Ciao, un attimo. È stato bello. Passiamo un pezzo, sì, passiamo. È arrivato, sub zero. Passiamo 16 barre in manto. E ve lo spieghiamo dopo, raga. Ciao. siamo di fretta, scusate. Yo, Prince King, confinato fra teche di vetro. I tuoi fisi MCs mi ridono dietro. Parlano di vite da film che non vivranno. E per mano della morale comune soffocheranno. E notte al buio come via d'uscita. Ogni mattina il cielo è più nero di prima. Dalla macchina l'entrata in fabbrica con la testa china. Auguro la morte alla dea albina. Non è questione di un lavoro buono, ma che le macchine valgono almeno quanto il lavoro di un uomo. Poter starsene in disparte per godersi l'arte. Poter entrare in quelle arche e riprendersi Marte. Gli statisti dicono che non tutti al mondo potrebbero avere tutto. Le materie prime a quel giungo sbagliate sono esauribili. Ma se in piedi il popolo mondiale starebbe su Rimini. Che cazzo di discorsi? Aspettarsi dall'alto aiuti non serve. Quanto veloce si sparge la voce di un impiccato con in tasca una rosa, una croce. Non la faranno mai, salvo aspiranti suicidi nell'hi-fi. Spingo merda per uomini vivi dalla CAI. Manto parla da solo, l'umano è qualcos'altro. Oltre alle bestemmie che tira lavoro, i loro scrivi per il loro vero, i loro miti per il loro impero. Ma questa sera la caverna tremerà davvero, dal nucleo del pianeta fino al cielo nero. I loro scrivi per il loro vero, i loro miti per il loro impero. Ma questa sera la caverna tremerà davvero, dal nucleo del pianeta fino al cielo nero. Brucia la bandiera dell'enclave, disordine da demone disperso nelle terre del Moave. Voi con le vostre strade falliti sarete seppelliti da zampilli e detriti. Ma se dobbiamo mostrare quello che abbiamo, perché bisogna dimostrare che ce la facciamo. Io non la stringo quest'etica, non vedi che non la si afferra con le dita per somma magnetica. Ogni volta fila via, la vedi, la segui, ma se la raggiungi lei scappa via. I loro eroi sono nudi, oltre i campi di grano turco sepolti in fosse comuni. Mali sulle reti che gettano dentro i fiumi, sotto i fumi della notorietà annodano nei funi. Sfruttati nell'immagine e a luci spente i loro corpi verranno gettati in adige. I loro scrivi per il loro vero, i loro miti per il loro impero. Ma questa sera la caverna tremerà davvero, dal nucleo del pianeta fino al cielo nero. I loro scrivi per il loro vero, i loro miti per il loro impero. Ma questa sera la caverna tremerà davvero, dal nucleo del pianeta fino al cielo nero. Ok, ci siamo tutti, ci siamo organizzati un attimo. Sappiate che non abbiamo beat di sottofondo, quindi è molto triste la puntata. Va bene. Accendi il microfono quello là, così lo spostiamo. Ok, tira di sto microfono. No, tira, te lo portate, tienitelo in mano qui a mo' di rapper. Attenta al taglio, lo schermo. La scuola. Stiamo facendo dei magheggi strani con i microfoni. Ci siamo. Cioccolato, vabbè. Come cazzo ha fatto a cadere il torti? Ah no, dai, beh. Ebola. Tanto moriremo tutti. Allora, comunque. Ok, perfetto. Vai, lo tengo in braccio io il bambino. Vai. Quale miglior gruppo comunque per rappresentare la paranoia, il complotto e il disagio di questi giorni, se non i 16 balle? Aspetta, vedi se funziona il microfono prima di fare. Parla, Marti. Prova. Accendilo di nuovo. L'ho acceso. Aspetta, vai. È acceso. Yeah. Vabbè, non ti preoccupare il capo. Ma siediti vicino e basta, dai. Il mio bicchiere di whisky. È molto basso. Dopo, alcolizzata. È buona. No? Parliamo un attimo, mettiamo il primo. Beh, sì, ciao. Che ansia. Non mi siedo senza il bicchiere di whisky. Sì, la priorità di Marti non è la diretta, ma il bicchiere di whisky, esatto. Vabbè, ma perché so che chi ci ascolta empatizza con me, ovviamente. Chi ci ascolta si sta sbronzando, insomma. Sì. Eh? Io anche da qua. Vedi, solidarietà femminile, ecco. Troppo comodo così. Bene, comunque, 16 barre, dell'uno del pianeta, album, l'almanacco del complotto, quindi proprio fatto apposta per questa serata. Ora, io appena me l'hai detto, ho pensato, ma secondo me sto pezzo l'abbiamo già passato. No. So che poi hai fatto no. E poi ho pensato, ma forse l'altro che mi hai detto abbiamo già passato. Perché me lo trovavo già scaricato. Ah, vabbè, però vabbè, penso... ormai sti cazzi, sì, vabbè, cioè, sono ad uso a queste cose. Comunque abbiamo cercato di mantenerci più o meno sul tema, capito? Quindi abbiamo messo un po' di pezzi che più o meno parlano di situazioni X, capito? Vabbè, c'è ovviamente, vabbè, c'è questo che ovviamente ci andava, credo, classicone, questo abbiamo passato, c'è questo, cioè, dovrebbero c'entrare chi più e chi meno. Tra l'altro anche delle finezze vedo, perché alcune trattano gli argomenti che c'entrano anche abbastanza in questi tempi, ma lo affrontano in maniera particolare, come il pezzo di Willy Peyote. Esatto. Bravo, bravo. Merito anche, sì, sì, merito anche. Ma brava Vintro, apprezzo la ormai ci dà per scontato che faccia tutto io, ma non sempre è così. Non sempre. No, guarda te, perché come questo, cioè il fatto che hai il microfono qua davanti, allora guarda davanti allo spigolo così guardi, sì, tutto. Dovrei abituarmi a fare questa cosa. Comunque un occhio qua, un occhio qua. No, voi dovete mettere quattro figure qua davanti, le vostre quattro oppure maschere. Oppure mettiamo degli specchi. È un complesso giuoco di specchi, se ci un complesso giuoco di specchi. Un complotto di specchi. Io direi che ormai che l'abbiamo annunciata, passiamola questa willata peyoiata. Ah, quella di sì, che è questo punto di vista un po' particolare di un torinese sul Willy il principe di Torin. Che odia tutto il resto. Che odia torinesi. Sì. Vabbè, allora lo passiamo e dopo... Questo il disco è La Sindrome di Tourette. La Sindrome di Tourette. Che è uscito nell'anno 2000X, non ricordo. 2000, boh, 10, 11 sarà uscito. No, dopo. 14 anche. Già più vero, senso. Dopo, sì, ma nel 2017, sai. Sì, no, 2017, 16, no, sì, no, 18 lo scambiavo con l'altro. Adesso 17. Boh, non mi ricordo, vabbè, regà. Vabbè, chiudo i microfoni. Ciao bella, ciao, ciao, più tardi. Ciao. Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione, devo cambiare connessione. Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Mi serve un leader d'opinione che mi dia un'indicazione. Sono più rap, più indicazione. Non ricordo dove ho letto che forse i vostri cani non piace la techno. Spariti i sogni dal cassetto, beh, qui la vita è ingiusta. I vostri sogni in un sacchetto, forse più corretto busta, quindi butta male. Voce del verbo sputtanare per dedurre che si può ballare pure senza assumere o lavorare senza essere assunti. Io non giudico nessuno, mi faccio un'idea, se vuoi ti do gli appunti. Ma mi spiegate perché ogni cosa che fate quando vi schierate si trasforma in una gara a squadre, basta un attimo. Fine del dibattito fra due tifoserie, che tanto le idee giuste sono le mie. Tanti argomenti senza un'argomentazione, amore senza precauzione, fede senza imprecazione. Ma i cani son meglio delle persone che dicono che i cani son meglio delle persone. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie si inviteranno. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie si inviteranno. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie si inviteranno. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie si inviteranno. Lei mi dice che deve lasciarlo come fosse un altro impegno in agenda. È il martedì o pole dance e c'è un esame a fine mese, quindi Marco Bell lo lascio intorno al 30. Sai che cosa mi spaventa? Che la gente si accontenta, la gente si addormenta e sti stronzi qua qualcuno li stipendia. Quindi pungi come un tossico, vola come una bestemmia e lascia che si insultino a vicenda. Nella vostra trasgressione c'è un sacco di conformismo, in tutto quel disagio c'è un sacco di narcisismo. E senza offesa, ma vestirsi male, avere un pessimo rapporto col cazzo, mia cara, non c'entra niente col femminismo. Che fine ha fatto l'umorismo? Togliti il palo dal culo e lascia stare il catechismo. Che tanto non fa effetto, no. Non sono neanche battezzato e si esiste pure peggio perché è evidente a cazzeggiare. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie si invite a me. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie si invite a me. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie si invite a me. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie. I cani son meglio delle persone che dicono che i cani son meglio delle persone. I cani son meglio delle persone che dicono che i cani son meglio delle persone. Se fossi me saremmo in troppi e già qui dentro c'è una gran confusione. Ma i cani son meglio delle persone che dicono che i cani son meglio delle persone. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie si dite amen. Le preghiere non funzionano, ma le bestemmie. mannaia puttana, mannaia. Vabbè, però Willy è sempre volevo bravo, aprire. Eh? Sì, sì, no, volevo soltanto bravo. Aprire così. Ci spieghi meglio questa scelta e poi ne parliamo? Parla con te, scelto te il pezzo. Filtro? Ma in realtà non lo so bene perché, però non tratta esattamente il tema del complottismo, però tratta un po' il tema della gente che crede a tutto e che si fida ciecamente di quello che gli viene detto. Infatti si chiama I Cani, non a caso, no? E niente, mi si collegava un po' a questo discorso del fatto che la gente ci casca sempre come una pera in tutto quello che gli viene detto. Lui infatti non a caso nel ritornello dice di te amen, proprio per fare riferimento al massimo esempio di questa cosa qui, che è un po' la religione in tanti sensi. Cioè, nulla contro i cattolici, un po' sì, però insomma... Sì, sì, sì, sempre, sì, sempre sì, comunque, okay, sì, sì. Ok, siamo d'accordo. Niente, questo era il motivo per cui l'ho messo. Poi perché Willy Pagliato è molto bravo, secondo me mi piace. Ok, ora lei te l'ha spiegato in modo bello, ora te lo spiego io com'è andata davvero. Stasera mi diverto a fare questo giochino, ti spiego. Io ero al computer, lei era sul letto. Oh, ma che mettiamo, boh, comincio a cercare pezzi. E dai, sto vedendo, un attimo, questo no, questo dai, ci può stare. Questo è, non lo so, però mettiamolo. È andata avanti così finché non abbiamo riempito la pennetta. Però inconsciamente aveva fatto questo ragionamento. Sì, no, però mi diverto stasera, dai. No, non volevo smontarla, è soltanto la scena divertente. Comunque no, tra l'altro infatti la cosa che ha detto Vintro è giustissima e mi fa pensare anche invece al discorso della, tornando al tema principale, la paranoia principale di italiana, no? del virus che impedisce della pasta barilla che sta finendo no, ma è vero, cioè il saccheggio senza no, senso ridicolo, degli ospedali, i prezzi allucinanti hanno raggiunto la mochina. Tra l'altro abbiamo una il saccheggio degli ospedali, sì, saccheggio degli ospedali, scusate, il supermercato. Sì, è l'avventarsi sugli ospedali. No, tra l'altro qui abbiamo una voce di mochina piena. Sì, sì, siete arrivati in ritardo, cioè, ma ho aperto la puntata prima vale della oro. Sigla proprio con la mochina vale oro. L'abbiamo messa in vendita, ma nessuno ancora ci ha scritto per comprarla. Però appunto tutti questi atteggiamenti fanno vedere quanto la nostra società è fragile, quanto basta veramente poco per mandare in paranoia tutti, ma paranoia grave. Cioè, non ho messo Artificial Kid, cazzo, mi sono dimenticato. Mettiamolo da... Sì, no, vabbè. No, ti prego, non farmi chiudere e riaprire e quindi... il programma. Quindi... Quindi attenzione, cioè veramente basta una minaccia, come prima la minaccia pompata dai media potevano essere i migranti, come adesso appunto è quest'altra minaccia del virus. Vabbè, e come le due cose si intrecciano, perché episodi di razzismo ci sono stati. Sì, sì. Vabbè, ma abbiamo avuto anche la SARS, quando abbiamo avuto l'Ebola, capito? Che però dove la SARS venivano... non è mai arrivata qua. No, però capito, comunque il panico generale, cioè i giornali, si io ricordo ero più piccolino, che però comunque esplodevano. Oh mio Dio, le mascherine quelle! Mm-hmm. Sempre si additava comunque all'estero, capito? In ogni caso. Siamo una società isterica. Siamo una società psicotica. Psicotica, credulona, che si fa guidare da certi fenomeni. Sì, sì, ha alzato la mano, facciamo la parola. No, dicevo, no, perché non voglio parlare sopra nessuno. Ha fatto però... bene. Dicevo, da qualche parte ho letto, no, questa frase che mi ha colpito, no? Che in qualche modo siamo la società del consumo e lo siamo anche della paura. C'è un consumo c'è un bisogno, no? di alimentarsi anche di, anche se è solamente paura e paranoie. E poi l'atteggiamento che uno ha del consumismo lo applica anche sulle relazioni, sulla psicosi. Quindi, insomma, penso sia alla base il problema è... Siamo questo, è proprio, siamo una società che... Un popolo di pecore. Sì. Infatti, sì. Per questo, il pezzo di Mistaman, che poi prima hanno detto un cazzo che siete arrivati, ho stoppato il tutto, c'era una frase che mi piace un sacchissimo, ho scelto in realtà soltanto per quella frase, ho scelto quel pezzo, nonostante lo ami. Il terrorismo non inizia quando esplode la bomba, ma quando esplode la notizia bomba, capito? E questo racchiudeva il tutto. Secondo me ha racchiuso perfettamente il tutto e me ne posso pure andare a casa. Ho finito il mio lavoro. Sì, no, ma infatti è un discorso che secondo me ho citato a malapena all'inizio, ma andrebbe comunque approfondito al riguardo, ora non in questi pezzi qua, perché mi pare che nessuno di questi ne parli particolarmente, però è proprio quello dei media e di quanto riescano a distorcere totalmente la percezione che abbiamo della realtà, stando sui social come su qualsiasi tipo di blog o cosa del genere, che riesce totalmente a contorcere la realtà in altri modi, a farci vedere soltanto quello che gli interessa. Esatto. Gli interessa farci vedere poi a chi? Boh, in realtà a nessuno, è una... sono un gatto che si muore, sono gli illuminati che decidono, cioè. Ma anche per viejo opportunismo, anche per vendere solo più copie, esatto, cioè. Solo per vendere più pacchi di pasta, capito? Sì, questo. Ma io ho una domanda che magari qualcuno qui che ne sa più di me lo sa. Ma tipo un virus con il freddo muore? No. No? Cioè non è che se adesso la temperatura fosse stata più bassa? No. No, no, non ne so un cazzo. Io ho studiato arte, va bene, quindi non ne no, ne io so. Stavo soltanto imitando Sub-Zero. No. Cioè non è che se adesso erano meno due... magari no, forse esiste una temperatura sotto zero dove il virus può morire, immagino. Ogni virus penso che possa morire a una determinata temperatura. Allora, no? Per esempio, un virus ha bisogno di più che altro di un substrato. Cioè, se sta... Sub-zero substrato. Se sta, per esempio... Ha bisogno di te un virus per morire. Faccio un esempio. Il virus dell'HIV resiste pochissimo tempo su una superficie. Beh, ma il coronavirus all'inizio hanno detto che resisteva mezz'ora sulla superficie. Qualcuno diceva mezz'ora, qualcuno diceva 9 minuti. No, che poi la Germania ha fatto dei test su un virus simile a questo Covid-19. Ha detto che poteva resistere anche... dei sette giorni. Ora mi fido dei dottoroni tedeschi, quindi va bene. Ci anch'io, però il virus ora. Era tanto simile, non era il virus quello. Può cambiare, cioè tipo questo virus è al 79% uguale alla SARS, però capito, i virus cambiano, hanno questa capacità di mutare il DNA molto facilmente. No, ma appunto, quindi, ecco perché ho detto, hanno fatto dei test su qualcosa di simile, non su quello. Ci sta, cioè ci sta, voglio dire. Vabbè, comunque, mettiamo caso che la temperatura, siamo a meno 20 gradi. Un virus può morire. Magari diciamo che per esempio il calore, per esempio l'estate, magari lì può limitare il diffondersi di un virus, perché banalmente non starnutiamo, non tossiamo. Ma non è mai tossito in estate? Non c'è, magari in quell'estate calano e quindi si diffonde meno repentinamente. Quello aiuta. Quindi il virus poi non può morire. Poi penso che se lo spari a 2000 gradi Fahrenheit sicuramente... Sì, per questo bruciare, come quando bruciavano i corpi di chi moriva di peste. Comunque ha un corpo proteico che protegge del DNA. È una cosa molto semplice il virus. Ma quindi non può essere congelato? Ma può essere congelato il substrato su cui si svolge il virus. Poi lo puoi trovare. La cosa importante è che lui abbia un ambiente in cui lo vedi, in cui sta, ecco. Quindi no. perché si parla di una cosa microscopica e okay, che sono componenti proteiche che dentro hanno un DNA, che è un guscio, che praticamente arriva dentro una cellula, inietta il DNA e fa lavorare quella cellula per replicare quel virus. No, scusa, ti sto soltanto correggendo un po'. Funziona così la cosa. Ecco, avete capito che Sub-Zero è l'unico che ha studiato Super qua dentro. Quark. Perché abbiamo... Ma poi magari ha detto qualche cazzata. Lei ha studiato arte, io ho studiato, diciamo, ascolta arte. Ascolta Burioni, mi infama, questi gente, bastarda, fake news. Sì, no? Sicuramente ci sta ascoltando. Sicuramente Burioni, sì, ma Burioni è Sauron. Sì. Domani. Ma se adesso facciamo una diretta con l'hashtag coronavirus, secondo voi i nostri ascolti salgono tipo a 2000 ascoltatori d'un botto? No. Proprio vengono ad arrestarci ora. No, facciamo. Però io ho un'idea. Sì, ma non gridare, perché sto gridando, non ho le cuffie, non mi sento. Marimahani. Scusate. Vai. A proposito. Sì. Smettila di fare casino. Dicevo, ci spostassimo nel nuovo mondo. Non abbiamo pezzi sulla luna. Non far cadere pure le cuffie, però. Non è la luna il nuovo mondo. Ma ormai non è più il nuovo mondo l'America, dai. Su. Vabbè, per me sì. Io sono rimasta a Borgia. Ma ti chiudo il microfono. Ma perché? Non lo so, non lo sfizzo di chiuderti il microfono. Cioè... Sei cattivo. Certo. Ammalati, dai. Ammalati. Cosa mettiamo? Allora. La company flow. Li ha scelti lei. Scelti io. Perché sono bellissimi, ascoltatevi i dischi, sono tipo un trip allucinante, lo ascolto tutte le volte che sono in treno, me li ascolto guardando tipo non il pensavo neanche che li conoscessi, pensa. Stanno succedendo una serie di disastri. Vabbè, niente, qua vi spiego cosa è successo. Insomma... Mi si è rovesciato un bicchiere pieno. Non vi dico di cosa, però, sennò qua qualcuno potrebbe uccidermi con la mochina. Di sake. Vabbè, tieni il pezzo, Mettiamo sto pezzo e abbiamo poi parlato ne raccontiamo troppo. Un po', vai. Do you know who you are? Do you know who you are fucking with? Do you know the access to weapons money and power that we have, we will fucking kill you. I'm the ugliest version of passed down toxic capitalist rabid MC perversion. I'm America. Your bleeding heart liberal dribble gets squashed. Watson with stubble eyes, rhyme patriot, guided weaponry bought for the makers of devious hearts. I'm America. You bitchy little dogs don't even phase my basic policy to bomb smarter. My Ronald Reagan's crush Carter with band pick tactics making young men into martyrs. Come to my happy promised land, smiley face opportunity cipher and jump on a co-flow pension plan. A proletarian crushing state of the union between serpentine words and mass confusion of media control blurb advertising disillusionment. Your family will love my low rent, low life, no brain reality dagger movement. Hop over the border for amusement. Try to test the waters at the other slaughter crews bailed. You up again, Jesus freak, forming corporations and young Republicans. Indelible NATO force hidden agenda pumping government. I'm loving it. Keep the people guessing who I'm running with. Control the population and hide behind sacred covenant. Fucking with me. Please, local wildlife burning gasoline seas. Standing on a magnetic third world planet with metal plates in the knees. Can't you hear the disenchanted hollow scream of Gabriel's reflective new wind instrument, a judgment plate and flat sea? I replace humans like robots in a GM factory. Then explore metaphors. Sweatshops is a price of satisfactory. Compliance to the cries of injustice get met with apathy. Soap, cloak, hormone-injected dairy products and conservative right-wing anti-eroticism. The poisonous reservoirs and power lines in the neighborhood cause botulism. Senseless, join the census. Censorship, sentence is sentence. Triple felon citizen, paid penance. Dissension against CF Ensign. Penitentiary residents, lock them up first and ask questions. Omniscient presence, my charm is the weapon. With cameras, mics, and satellites to leave privacy breath. You don't even know the chemicals you've ingested. You're intested. Beat innocent man till he confesses. Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's Terminus verbal curfew murders. You either purchase my products or you're worthless. That's my service. Don't look into the oculars of a daylight saver. Erase a city-headed monument defacer comprising of patriot droids sent into the void with lead linings. Employed by the bureaucrats of automatic twisted rhyme timing. You're guaranteed nothing but my fat little finger that lingers 1 inch off of the big button. Let's start this. I'm sarin gas hiding your apartments. I'm stealth like a robot hidden in a fat asshole apartment. A prickly fuck like sand shark skin condoms to your paravaginal problem. The hottest shit off sound. I'm America until infinite death just measured to the pesticide symmetry. Invite you to cross the border, then shit on your divinity. What language is that? I'm anguished and fat and tangled with a star-spangled standard issue gap for crowd management. Talk loud and get enshrouded in a hot cloud of harassment by the proud force of my mental pedestrian checkers that smash and support their skulls and update the filing of death of records. You're trying to get elected, but the crowd is my paid heckless. You just stepped into the spectrum of paranoid word rainbow, thinking you sick with a silhouette burn transit cop on his plane clothes. I'm America. This is where the pain grows like poppies. In a field of dreams I paid for, I'll burn it down if operated sloppily. Copy. My economic sanction rhyme style got your syllable scraping for rights and writing in the pre-1960 jalopy. My favorite flavor of gas is mustard. I'm fucking a blind hermaphrodite icon and convincing you that it's justice. Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Motherfuckers! noi siamo giovani. È bello finire i discorsi così al microfono e nessuno sa di cosa stavo parlando. Mi sento così forte, potente. Sì, no, avevo comunque, bisogno di venire. Il microfono è un po' basso, non te lo volevo dire. E no, è che dipende, a volte alzi la voce, a volte la bassi. Lo so, è una mia peculiarità. Comunque niente, basta. Noi mentre passano i pezzi si parla di malattie infettive, cosa che, voglio dire, nel senso, argomento principale in questi giorni. Vabbè, facciamo a questo punto un endorsement pubblico. Se state male, statevene a casa. Statevene a casa, porca statevene troia. Non gira, non andate a fare la spesa che vi fotte. Poi tutta la barilla fa cagare. Perché comprate solo quella? Ma dico io, ma c'è tanta pasta buona. No, le penne lisce no. Le penne lisce fanno cagare mamma di qualsiasi marca. Le penne lisce, mamma mia. No, raga, non l'ho mai sopportate. Il cioè, virus è il male. Le prendi con la forchetta e sgusciano. E scivolano. E il sugo non si attacca. Attacca, scivola, e tu la guardi, la mastica e fa: ma che cazzo è questa roba? No, ha senso solo insulto. Con la panna. No, la penna liscia non ha senso. Ma la panna ha senso? Esatto. Comunque, a parte gli scherzi, se state male, avete la febbre, avete sintomi influenzali, state a casa, chiamate il 1500 o se non vi rispondono il 112, state a casa per l'amor di Dio. Cercate di non venire al pronto soccorso per queste cose, è molto importante. Allora, ma quanto è bello, sessioni notturne in forma, ragazzi. Siamo un super programma. Da domani parliamo di cose pulite, di cose necessarie. Ma infatti riempiamo queste bocce di rum e continuiamo. Per mercoledì prossimo, sì. Il vostro cane sta bene? Penso di sì. Scopriamole. Scopriamole insieme. Analizziamo le sue feature. E porteremo un dottorone qualsiasi laureato in canonologia. Cinofilia. Lupus. Ma suona brutta come parola. Queste cose, sì, no. Sì. Uno di noi farà la voce di un dottorone, abbiamo risolto. Andiamo avanti. Esatto. Tocca a me. No, tocca veniamo a Tina. A noi. Tina, scegli un pezzo. Sangue misto. Perfetto, quello che lo metto anch'io. Ragazzi, come siete di didascalici. Abbiamo scelto, sì, perché reali, credo, siamo reali. Credo, è proprio clima di tensione, capito? Infatti l'altro giorno ho fatto una stories con questa canzone perché ho visto una piazza vuota, ho fatto che schifo. E ho fatto una piazza nel senso la piazza di Marradi, che ci sta che sia vuota, okay, Marradi. Un paesino. L'hai vista la foto? Mi hai risposto anche alla stories. E sai benissimo di quale piazza sto parlando. Te pretendi che io mi ricordi cose. Ma è successo due giorni fa! Sì, porca troia! È un sacco di giorni, due giorni. Non mi ricordo cosa ho mangiato a pranzo. Credo, ma mi scrive tante di quelle cagate, se le ricorda tutte. È una cosa normale che mi scrive, se la scorda. E dai. No, comunque c'è tensione. Ti blocco su WhatsApp. C'è tensione, indubbiamente. Però la questione è anche, no? Come si dice molto in questi giorni, no? Si parlava anche durante la canzone, siamo nella merda comunque, cioè anche se non c'è il coronavirus, perché comunque certo. Allora potevamo il clima è una merda e quindi comunque siamo nella merda. C'è uno sciame di leguste enorme e dall'Africa si è mossa. Sì, dallo Yemen all'Africa, sì. No, dallo Yemen vengono e vanno in Africa, non il contrario. Insomma, ragazzi, in Antartide ci sono i pinguini col sole, con l'erba, non c'è il ghiaccio, non c'è la neve, fa caldo. Sì, quindi a parte il coronavirus, al di là di quello. Sono gli incendi, sì, infatti l'apocalisse. E se ragazzi il coronavirus fosse un modo della natura per riequilibrare, quindi uccidere un po' di esseri umani. Selezione naturale, dici? Eh sì, perché gli incendi lo occultano il resto. O se il coronavirus fosse stato fatto apposta da qualcuno per uccidere un po' di cinesi. L'hanno provato con l'HIV ma non è servito a nulla. Se il coronavirus fosse stato fatto apposta per far sì che noi non pensiamo al pianeta che sta collassando? Oltretutto, no, ci sono un sacco se. O se invece fosse nato, nessuno se lo aspettava. Vedi, potevamo mettere se di Mistaman. Se. Tornava, se, però non c'era. Ce n'è già un'altra di Mistaman. Infatti, quella abbiamo già. Non l'ho portata. Era un. Ma perché non mi ascolti? Parla amico. No, dico due no. Ma infatti, è per questo ho detto. Avremmo potuto mettere quella invece di questa. Oppure telecomando invece di questa. E se mettiamo il pezzo? Mettiamo il pezzo. No, continuiamo a fare. Voglio dirti cantare. Continua, ti prego, dai. Dopo. Andiamo? Belli, bella. La tensione sale ogni giorno di più. Pure quando accendo la mia tele viene su.

hanno fatto la cover di quella e la cover è bruttissima, cioè l'hanno rovinata, cioè non dico che fosse la canzone bellissima io... prima, però era una canzone storica. I pezzi di Sanremo non li ho sentiti. Io mi sono fatto una cultura invece. Io mi sono visto Sanremo. Io ho deciso di odiare il più grande artista italiano. Non è vero, io mi sono però, io mi sono visto Sanremo tramite i video su YouTube dei The Jackal, quindi quindi Sanremo l'ho visto tramite, però l'unico pezzo di Sanremo che ho ascoltato per intero è stato Eden di, no, di Rancore. L'unica cosa di cui vuoi parlare di Sanremo è esatto, è parlare di Eden e di Rancore e del senso di Rancore. Beh, però guarda, io quando ho letto, quando ho sentito il pezzo ho fatto wow. Poi ho visto che stava in una posizione ridicola, ho fatto ah. Poi però ho visto che ha vinto il premio per il testo e là sono stato contento, vuol dire che qualcuno ha ascoltato il pezzo. Certo. No, ho fatto no, ma lui ha fatto oh. A Radio 105 lui lo spiega, dice, alla fine ho ragionato, ho pensato, quale migliore occasione se non Sanremo, se non Sanremo, sì, ho visto il video perché che pezzo, di fatto, volte il, no, gente... anche perché il testo delle canzoni di Sanremo esce una settimana prima che esatto, cominci Sanremo, magari sì. Qualcuno interessato lo legge prima. Però secondo me comunque è un po' un rischio, per un artista come Rancore, perché comunque sì... Capito, il testo spacca, anche era ancora un artista, anche l'anno scorso è stato con Daniele Silvestri, se non sbaglio, a Sanremo. Sì, ha fatto un quindi Daniele comunque, comunque si è fatto vedere, si è fatto vedere e conoscere da un pubblico un attimino più mainstream. Però, capito, un pezzo così, poi rappato in quella maniera, comunque veloce come rappare ancora, capito? Secondo me ha rischiato. Sono contento che ha vinto il premio per il testo, perché il pezzo a me piace un sacco. Il beat non mi fa cagare, cioè, però il testo mi piace tantissimo, come lo rappa anche, però secondo me ha rischiato molto, perché comunque tu stai andando, cioè capito, Sanremo è un palco dove, credo, cioè io negli ultimi anni non ci ho visto chissà robe serie, credo, tutto sta, cioè, credo, non lo so. Cioè, no, ma infatti... Per me Sanremo potrebbe essere abolito oggi stesso. Cioè, io sarei, però, per esempio, Gong. Per me sarebbe bellissimo se DSA Commando suonassero sul palco dell'Ariston. I sogni, cioè, i sogni sarebbe più. Incredibile. Sarebbe epico, ma sarebbe secondo me epico. Secondo me alla fine del pezzo lancerebbero i microfoni tra il pubblico e poi scapperebbero urlando tipo ma qualcosa sì, ma di... farebbero la cascia dietro, cioè che buco e morire. Vabbè, dai, c'è stato Eminem a Sanremo, quindi nulla sì, è perduto. Si tutti. Ha fatto bene, ha fatto benissimo, io sono felicissimo di questa esatto. Cosa. Però appunto tornando al discorso di Rancore, secondo me ha fatto bene. È stata una strategia sensata, ha avuto riconoscimento da una parte della musica, dell'establishment musicale italiano, non solo per se stesso ma per tutto il rap. E infatti lui lo ha dedicato al rap italiano questa cosa. Sì. E quindi grande Rancore che porta, che se la colla e porta una cosa seria, bella, in un palco... Meno bello. Meno bello, magari no, appunto. Che... Meno bello, musica. No, che conservatore. Dai, sto scherzando, Mars. Un palco conservatore che si ascolti Riditela. I vecchi amanti di Sanremo rimpiangono... Scusa, però non ridevo per te. Rimpiangono le vecchie canzoni e schifano Achille Lauro. E per quanto Achille Lauro sia magari un personaggio... Ma Achille Lauro tanto ha fatto rumore quest'anno che è arrivato vestito come cazzo era sul palco. Sì, ma va il bene. Pezzo faceva cagare. Sì, ma va però bene. La gente ha cominciato a fare: ah, è un dio, fa brutto. Il pezzo è bellissimo. Solo perché sì. Sai quanta gente conosco che in quei giorni mi ha bombardato di messaggi sì, e di insulti perché a me faceva cagare Achille cioè, Lauro. È proprio questo il punto, secondo me. Cioè, Sanremo ha un botto di difetti a livello morale, etico e culturale, ok? Della serie che. È veramente organizzato che per sono 40 anni che Albano e Romina cantano Felicità con i soldi. Basta. Esatto, va bene. Però è anche vero che secondo me, cioè, per un artista come può essere Rancore, ti dà una visibilità che non ti dà nient'altro. Sì, sì, no, quello. E quindi se te porti un pezzo come quello di Rancore è giusto portarlo su un palco del genere, non tanto per il posto in sé per sé, ma perché alla fine riesce a raggiungere un pubblico talmente vasto che non raggiungerei mai. Io non ho detto che non è stato giusto, cioè io sono contento, semplicemente ho detto che secondo me ha rischiato, niente, cioè, è stato un sì, rischio. Sì. Comunque anche lo stesso Gamon l'anno scorso gli ha giovato, poi non è che sì, è andato sì, lì sì, rappando, no. Però prima non lo conosceva praticamente. No, infatti, no, a Gamon le ha giovato un sacco perché molti hanno cominciato a seguirlo da Sanremo, capito? Esatto, quindi vabbè. Però, capito, è stato un rischio diverso, capito, che comunque, cioè, capito, il fatto è che un artista come Rancore, capito, che ora come ora comunque viene più dall'underground, capito? Sì. Gammon ormai è uscito, da, capito? È diventato, ha cominciato a cantare già con Orchidee, quindi già comunque si era fatto vedere da un pubblico diverso, capito? Già in qualche altro modo da più gente era conosciuto rispetto al Rancore, che non, capito, è conosciuto più in un ambito, capito, strettamente hip hop. Quando Gammon invece è già arrivato come un cantautore, capito, sì, a Sanremo. Sì, esatto, e anche nello stesso ambiente hip hop ha dei, cioè, piace a gente che ha dei gusti magari particolari, no? Perché sì, sì, sì, sì, assolutamente. Poi anche, secondo me, Rancore perse tanto quando, DJ Micio Nero, DJ Mike andò via. Lui, lì, secondo me, perse molto Rancore, perché DJ Mike è un mostro. Perse anche molta gente, perché molta gente seguiva DJ Mike e tuttora... Vabbè, è un po' come quando si sciolsero DJ Axe e J Jed, molta gente seguì J Jed, ma tutti quanti seguirono J Axe. Però comunque era ancora continuato a fare dei bei lavori. Sì, musica, sì, per bambini è un album. A me è piaciuto Musica molto. Per Bambini. Alcuni pezzi più di Axe, cioè, alcuni pezzi più, alcuni pezzi meno, però comunque un lavoro che ha un livello altissimo, cioè niente da dire. Quindi grande Rancore che porta l'hip hop a Sanremo. E ora andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Abbiamo parlato fin troppo. Senti, non ho portato news questo giro perché ho fatto molto di fretta. Ma va bene, li abbiamo riempito con. Sapete che sono usciti un sacco di pezzoni e di schifichi, poi vi riporto. Allora, l'altro discorso che mi... Cioè, quando si parla della paranoia, no? E del caos, della distruzione. Okay, da buon panchettone rivoluzionario che sogna una società diversa e che ama i film distopici, non posso che anche in qualche modo tifare paranoia, coronavirus. Siamo un po'... Ho un po' di gene da agente del caos. E quindi quale migliore occasione se non portare gli assi a comando agenti del caos. Ok. Allora, visto che abbiamo parlato per troppo tempo e sono le 10:10, io adesso mettiamo due pezzi di fila. Ci sto. Mettiamo gli assi a comando, agenti del caos. Poi mettiamo 2000 adesso di Nero, Kroll e DJ Devasto. E ci vediamo più tardi. Dai. Ci sentiamo più tardi. Viva gli assi a comando. Ta-na-na-na. Sono un agente del caos. Flash di violenza esasperata, sovraccarico, shock cerebrale. Assieme a 100 orgasmi in corsa, la colonna vertebrale. Il caos che si prende a forza le strade. Noi convertiamo i nostri inferni in terni in armi. Comincia a darti da fare. Io paziente, dottore, strega, inquisitore. Dipendente da polvere, insetticida, blat e sterminatore. Agente speciale, sezione baratti umani. Esco dal televisore a sezionare crani di bravi cristiani. Non è moda e droga mai sintetizzata, Giuda e scariota. Bestia ubriaca, idolata, testa di capra. Ligata, propaganda antiumana, degenerata architettura d'aggressione alla nazione ipnotizzata, castrata, chimicamente allevata, ingrassata estrogeni, pide di carcasse con occhi idioti da insetti ignobili. Voi restate comodi a guardare i palazzi crollare, i ragazzi spallare, il caos che non volete, che non puoi fermare. Dal marcio represso dentro, striscia sottoterra, muove guerra indipendente e violento. Che dentro si moltiplica, attacca come batteri, distrugge senza logica niente i vostri pensieri. Allo sforzo dal marcio represso dentro, striscia sottoterra, muove guerra indipendente e violento. Che dentro si moltiplica, attacca come batteri. Come tempo causa l'anarchia, terrore nei vostri pensieri. Atto assoluto per le strade, col volto coperto in giro. Le squadre per i quartieri diffondono la forza al verbo. Indipendente e violento, sputando sangue e lamento, imprimendo insegni infame tra catrame e cemento. E voi eroi del bene viene, gente per bene, difendete il seme di un regime che non sta più insieme. Il nostro insieme a forza bruta, senza schema, incontrollata acuta. Firma la caduta dello Stato che accusa e che non ti aiuta. Poche fiamme, una guerra senza colori, cani contro i padroni, condanne senza ragioni. Da fuori psicosi, senza contante né facoltosi, né vinti né vincitori, né infami né traditori. È solo caos fino a se stesso, senza leggi, senza rispetto. Ciò che non controlli fa paura quando vai a letto adesso. Il giorno è come la notte, niente ha più senso. Nasce spontaneo da un istinto, marcio represso dentro. Lo sforzo dal marcio represso dentro. Striscia sottoterra, muove guerra indipendente e violento. Che dentro si moltiplica, attacca come batteri. Distrugge senza logica niente i vostri pensieri. Lo sforzo dal marcio represso dentro. Striscia sottoterra, muove guerra indipendente e violento. Che dentro si moltiplica, attacca come batteri. Come tempo causa l'anarchia, terrore nei vostri pensieri. Thank you. alcun rimpianto. Se il coraggio l'hai rinchiuso nella lampa, gli idee su foglio bianca, suonarla e ci sta franco. Sei, non rimango inerte a comprendere sto letargo, mentre tutto si compromette e si scommette l'ultimo tango. Everyday struggle, sane a debita distanza, ma il limite regredisce come la striscia di Gaza. Avanza con noncuranza, finché raggiungi la sostanza, non sarà di certo una corazza o porti resistenza. Scansa quell'apparenza, sì, priva di importanza, sarà cibo per la mente, ma per chi pensa e la tensa, colmo ogni mancanza, che sia pure un'assonanza, come l'incubo dell'ultima quartina a procurarmi ansia. Prova a non fermarti davanti all'evidenza, o perdere la speranza, al prossimo bollettino ansia. 2000 adesso, politici e banche con l'arsenale. 2000 adesso, maniaci fossaio in confessionale. 2000 adesso, la crisi studiata per governare su un popolo ossessionato, accecato dal capitale. 2000 adesso, pressione fiscale per schiavizzare. 2000 adesso, tuo padre che firma un'altra cambiale. 2000 adesso, ti illudi che il mondo possa cambiare, coi debiti per comprare ogni bene creato dal male. Cambio canale ogni volta, il telegiornale mi porta a sentirci male, distorta ogni mia morale di scorta. Cerco il reale nell'ombra per trasportare nell'onda di questo mare ogni sorta di mio ideale, che possa farsi arrivare a guardare poco più là. La mia impronta vocale ad ovviare una cecità, è usuale con il virtuale offuscare la tua realtà, equivale a valorizzare un'immane banalità. Ti ostini a guardare oltre l'orizzonte, poi inciampi, giochi di fronte alle volte. Varioni storti rivolti a storie contorte che ascolti sul TG Notte. Molte sono così forti che molti non vanno oltre. Una guerra mentale su chi prevale ostentare il suo saper farti pensare ciò che gli pare. Vuoi scherzare? La bomba è multimediale che vi assale. L'odierno virus letale, sociale invade il globale. Sei già il 2000 adesso, politici e banche con l'arsenale. 2000 adesso, maniaci col saio in confessionale. 2000 adesso, la crisi studiata per governare su un popolo ossessionato, accecato dal capitale. 2000 adesso, pressione fiscale per schiavizzare. 2000 adesso, tuo padre che firma un'altra cambiale. 2000 adesso, ti illudi che il mondo possa cambiare, coi debiti per comprare ogni bene creato dal male. 2000 adesso. Che pezzoni, raga, che boom, mamma mia, è finito che versi. Niente, ora a proposito di agenti del caos, virus e cose piccole, parlavamo di parassiti, ovvero Parasite, il film uscito da poco, ha vinto 7 miliardi di robe. Ha vinto 4 Oscar. E sì. Vitro giustamente diceva, a me va un po' deluso perché lei si aspettava chissà cosa. Sì, avevo queste grandi aspettative, invece... Ma, no, è un bellissimo film, è un bellissimo film. Sono anche contenta che abbia vinto l'Oscar, perché in realtà di solito l'Oscar lo vincono dei film che non mi piacciono, invece questo ha il suo perché. Però mi aspettavo un'inquadratura socio-economica, non lo so, della Corea, non so perché mi aspettavo grandi cose, invece un thriller fatto molto bene. Sicuramente non avrebbe vinto l'Oscar se fosse stata esatto, un'inquadratura esatto, della socio-economica della Corea. No, invece ti sbagli, Mars, perché l'Academy, nella sua ipocrisia, queste cose gli piacciono molto. Ma magari il capo della Corea avrebbe detto no. Boh, io sono di una tipo da Orso di Berlino, cioè... Dal Sundance. Sì, esatto. Vabbè, io invece, per legarmi a Parasite, il film che ha vinto gli Oscar, c'è anche un bell'anime che si chiama Chi sei Jude, Parasite, che è molto carino, anche se non c'entra un cazzo. Sono tipo degli alieni che scendono e si parassitano sopra gli esseri umani e combattono fra loro per uccidersi. Molto La magica divertente. Vita di Mars al computer. Vabbè, raga, ognuno c'ha i suoi interessi. Parassita o parassita, siamo parassiti solo, capito? E io invece, se ne prendo un anime, ho visto di recente Devilman, Crybaby. Bello, che... mamma, è assurdo, un sacco sconcio. Un sacco sconcio, è tristissimo, ha delle musiche bellissime. Sì, assurdo. E appunto sono i demoni che parassitano gli esseri umani. Sì, sì, ma Devilman, Crybaby, assurdo, mamma, è proprio pesante, cazzo. Io invece, sai, sono stato una settimana a casa con la febbre a 39. Mi sono visto i Cavalieri dello Zodiaco. Regà, epico. Cioè, i dialoghi erano così pieni di informazioni, così colti. Erano veramente colti. Cioè, era assurdo. Ma era un cartone con cui tu crescevi, imparavi qualcosa. Mica Peppa Pig. Imparavi il vocabolario. Regà, sono termini che tutt'oggi non si usano più. Belli. Dopo ti faccio sentire un video che avevo registrato. Bello, 20 secondi di epicità quando arriva Phoenix, che è cattivissimo. Phoenix, personaggio più bello della serie. Sì, sì, sì, bello, bello. Vabbè, vuoi dire qualcosa? Mi stai guardando in maniera assorta. No, no, mai visto vuoto. Una puntata di...

attorno ai tuoi piedi. Bastasse una X e via di torno, ma abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. La cosa è quotidiana. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. La cosa è quotidiana. Di un'altra che ci cade attorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. La cosa è quotidiana, di un'altra che ci cade attorno. Ragazzi, epico, no, aspetta, mo voglio dirlo, che okay, porca troia, cioè non è possibile. Convinto, sono arrivato in radio ed andiamo in diretta. No, raga, ho iniziato a registrare la puntata, non stiamo andando in diretta e porca. Abbiamo fregati anche stavolta, eh? No, ma ho fatto tutto io, che da sto giro non ci sono stati errori tecnici, ci sono stati errori Mars. Mars errori. Mars quando sbaglia si fustica con una... Sì, ragazzi, adesso mi berrò un bicchiere di amuchina per purificare il mio interno. E vinto per il colpo, come colpo di cazzo, gli versa una boccia di rum sopra le ferite. Comunque, posso dire una cosa? Voglio comunicarlo a tutti i nostri 23 ascoltatori probabili. Vai, chiamiamo. Il tuo microfono ha problemi. No, perché l'ho aperto, prima l'hai chiuso. No, hai il cavo. Proprio... Che problema okay. È il cavo? Errori tecnici. Fino a mo' non ce n'era stato uno, però stanno accadendo. Sto morendo. Dai, comunica. Il 29 febbraio farò uscire un beat tape di 6 tracce troverete su tutti i canali, troverete su iTunes, su Spotify, su Google Play, su YouTube, su Amazon Music. Ma in anteprima su Sessioni Notturne. Oddio, sì. In realtà ce l'ho un beat qua, sai. Però non mi pare. Però vabbè, in anteprima, come fa in anteprima se è mercoledì prossimo puntata? Vabbè, però per non lo fai uscire su YouTube, lo fai uscire come successo. Tu ne facciamo una serata apposta per lanciare. Eh sì, va bene. Stronzo. Allora, Massimo, mentre parliamo, metto l'unico beat che ho qua mezzo finito in sottofondo. E dico, beh, non è neanche sì! Finito. Non so, Anteprima. Anteprima, mettiamo questo. No, questo è, sì, questo è l'outro del disco, dai, mettiamo anteprima. Il nome è ovviamente provvisorio perché questo è il nome del progetto. Il disco si chiamerà Kodoku, che vuol dire solitudine in giapponese. Ok. Basta, è un EP, un chill hop, credo, cioè molto chill, tranquillo. È bellissimo, ambientale. Ragazzi, quando l'ho sentito, ho sentito Mars che ci lavorava ogni tanto perché abito al piano di sotto del suo, quindi ho sentito un po' di robe e quindi devo dire che valgono la pena. Lo farò uscire il 29, spero vi piaccia. Poi vabbè, comunque lo troverete su tutti i social, ovunque, bella lì, e niente. Possiamo continuare a parlare, abbiamo ancora 20 minuti di puntata. E un sacco di tracce da passare. Sì, non le passeremo tutte, quindi possiamo scegliere, vuol dire. Però sono belle, tutte belle tracce, hanno tutte senso. Io voglio sentire questo beat, alza. Se sapessi fare freestyle lo farei, ma sono veramente una schiappa. Bello. Grazie. Poi vabbè, lo sentirai poi, nel complesso. Esatto, però mi sembra così a primo acchito mi piace. Allora, possiamo dire altra novità ufficiale a questo punto, perché abbiamo appurato che funziona. Vai. E che abbiamo il canale Telegram. Ah già, devo metterlo su Instagram e su Facebook. Lo mettiamo su Instagram e su Facebook. Ogni volta mettiamo il podcast, lo ripubblichiamo. Allora, il canale pubblico Sessioni Notturne è t.me/blackwombat. A esso è collegato una chat pubblica in cui tutti possono scriverci e commentare la puntata, fare delle richieste, potete farci delle domande, cagate, sì, quello che volete. È insomma il vostro modo per contattare e parlare con noi. Se ogni tanto non ripetiamo, sapete, Telegram.me/blackwombat. Insomma, se avete Telegram cercate Black Wombat e lo trovate. Comunque, lo gireremo su tutti i social che abbiamo. E soprattutto vi spammeremo il canale senza pietà. Sì, sì, sì. Poi se per esempio siete lì che non sapete cosa ascoltare, scriveteci, ditemi una canzone e vi passiamo un disco, regà. Perché io sono così, mi chiedi una canzone, te passo un disco. Sì, mi chiedi un disco, sì. Te ne passo due. Me ne chiedi due, ti dico, vatti a comprare, zio. Cioè, YouTube c'è anche te, googlalo. Bella lì. Vabbè, già ragazzi, che ci siamo, facciamo il momento social. Io sto tossendo e nessuno di voi si sta preoccupando. Sono molto contento. Anch'io, ma è colpa della nicotina. Non si deve preoccuparsi, ragazzi. Cioè, io sto a un centimetro. No, Marzo stava per spararsi la mucchina in gola. Forse la mucchina va messa sui microfoni. Eh no, c'era già questo, durava l'antipop durava di candeggina. Te hanno messi. No, comunque dicevo, seguiteci sulla pagina Facebook di Sessioni Notturne e la pagina Instagram di Sessioni Notturne Wombat, ovviamente, perché è molto importante, diamo un sacco di informazioni in più anche tutte le settimane in cui non riusciamo a passare in radio. Comunque lì siamo sempre attivi, ovvero Marzio è sempre attivo, ma questa è una parentesi. Quindi almeno una volta al mese vi scriviamo, oggi non ci siamo. Ogni tanto anche io. È vero, ogni tanto anche Tina, è vero, io invece faccio piuttosto schifo da questo punto di vista. E non solo, se volete scrivere delle mail alla radio che ci sostiene, che è Radio Wombat, potete scrivere a postawombat@insiberia.net. Ma siete a memoria ormai. Sì, in realtà sì, era soltanto un dubbio momentaneo perché non ci leggevo. E niente, questo era il momento social, in realtà di base è finito qua. Ok, allora sentite, passiamo un altro pezzo. Dai, facciamo a tocca fra Davide Sciorti e Chiave. Ma possiamo metterli anche tutti e due di fila. Mi sembra già, mi sta scusando pure il telefono, da allora sì. Allora mettiamo prima Davide Sciorti e poi Chiave. Sciorti con il Funkshi Project, La Soluzione. E Chiave con Gravità da Il Tempo Necessario, che è un disco abbastanza vecchiotto. Ciao! Ho espresso la mia posizione. Dove? Basta andare indietro di due dischi e farne il nome. Benvenuti nel 2019. Hanno rubato voce al popolo e puntato il dito su un barcone. La logica del pollice che scorre, della mano tesa che saluta in chiesa e non soccorre, della spesa che non basta, della pasta e l'acqua che non bolle, diseducazione folle che lobotomizza folle. Ormai non scattano le molle, il buonsenso soccombe, gente scende in strada per la squadra, non per chi risponde della colpa di tenere a bada l'orizzonte, di tenerlo in vista solo per il desiderio enorme. Sembra di camminare tra le catacombe a cielo aperto, mentre cerco di restare calmo mi rincorre un senso di disgusto che distoglie l'attenzione dalla disoccupazione di un marito e di una moglie, con un figlio e con le voglie di scappare dalle paranoie. Ma qui in città chi semina non raccoglie, non c'è un premio di consolazione, una vacanza altrove, mentre c'è chi annega, fotte sega, non c'è più religione. La ricaduta un passo dalla guarigione, anime in rotta di collisione. Cos'è il perdono per le persone? Chissà se mai vedremo la pensione, all'insaputa di tutta la nazione, non si sa più cosa sia la rivoluzione, evoluzione oppure confusione, il passato se passato qui non è la soluzione, nah, il passato se passato qui non è la soluzione, già. Il passato se passato non è più la soluzione, mentre la televisione inventa storie su storie, l'informazione muore. Le stesse facce muovono minacce, divisione, specula sulla mia frustrazione, nega l'evidenza, regola della tua diffusione, discriminazione ma con discrezione, psicoviolenza senza distinzione, udienza senza testimone, spergiurano sulla Costituzione, senza aiutarsi a vicenda mi chiedo come corrompere la corruzione, facendo nome e cognome, dicono il coraggio è solo un'illusione, andate a chiederlo a Falcone, invece di litigare tra immondizia e migrazione, la notizia e lo scalpore, la ricostruzione inizia solo dall'amore, mattone su mattone, accoglienza e integrazione, il futuro è compassione, le emergenze nelle scuole, più intelligenza emotiva è ciò che ci vuole, sensibilità creativa, usare il cuore in ogni professione. La ricaduta un passo dalla guarigione, anime in rotta di collisione, cos'è il perdono per le persone? chissà se mai vedremo la pensione, all'insaputa di tutta la nazione, non si sa più cosa sia la rivoluzione, evoluzione oppure confusione, il passato se passato qui non è la soluzione, nah. Il passato se passato non è più la soluzione, nah. Il passato se passato non è più la soluzione, già. Che oggi cammino fra di voi senza sentirmi come voi. Dimmi ciò che vuoi sul filo di stirasoia, a testa alta per monitorare gli avvoltoi, convinti che il rap sia nato da un bianco di Detroit. Spingi di là, di ciò che devi, di ciò che puoi. Le vere manette non stanno ai polsi ma dentro la mente, e chi le ha avute sa che quando uno spiro le mette, te le mette sempre troppo strette. Rimo per chi vede poche stelle dalle grate di quelle celle dell'ingiustamente, per quelle modelle che hanno strade come passerelle. Quando passi in tangenziale pensi siano troppo belle per questo mestiere, per questo detesto chi le vuole mantenere su quel marciapiede. Tanto non fa testo se muoiono e sono straniere, è andata bene se il corpo torna nel loro paese. Se cose le sai o le hai viste alle Iene, hai paura dell'AIDS, malattie venere, caduto in queste ragnatele, stretto fra le chele della tele. T'accolgono come alle Y, ma al collo hai catene, hanno il controllo su quello che provi in più. Gli cambiano nome ma è sempre una chiavi tu, ho queste note e queste rime per farti capire che fuori c'è un regime, è ora di reagire. La gravità, gravità, e lascio che sia la gravità a portarmi sempre più. Non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no, non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no. Metto la gravità, gravità, e lascio che sia la gravità a portarmi sempre più. Non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no, non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no. Non mi fanno più paura, saldato il mio debito, la mia condotta è pura. Ma mi spaventa l'ignoranza di un volto sotto il berretto, spaventato perché gli ho risposto in italiano corretto. Oh, la passività di accettare tutto ciò che la vita ti dà. Mi spaventa una madre che usa la TV come babysitter, e per paura di invecchiare invecchia dall'estetista. È triste, sì, è triste, sì. Sistematicamente si offende un sistema che è fatto di uomini, rende la gente automi, anonimi di fronte a uno stupro, restano attoniti, immobili. Io ho ucciso solo un uomo nella mia vita perché ho ammazzato l'uomo massa che è in me. E ho queste note, queste rime per farti capire che fuori c'è un regime, è ora di reagire. La gravità, gravità, e lascio che sia la gravità a portarmi sempre più. Non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no. Non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no. Professionista, arrivista, azionista, commercialista, affarista, staccano vista. Qualcuno vuole che una definizione rapisca tutti quanti e crea l'antiproibizionista, anticonformista, anticamorrista, antinazista, antisessista. Se non sei unista vali zero euro, ma se il suffisso ista è il prefisso vero e pseudo, mettiti in lista, sfogati dall'analista che se ignorante confisca il tuo carisma. Non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no, non rivoluzioni se prima non cambi te stesso. Adesso vivo per realizzare un sogno che fece una notte d'agosto. Era un seme che si duplicava, triplicava, decuplicava, poi scoppiava inondando il mondo di migliaia di semi che si duplicavano, triplicavano, scoppiavano, inondando i pianeti di milioni di semi che si duplicavano, triplicavano. Rivoluzioni, no, non rivoluzioni se non ti rivoluzioni. Verso la gravità, gravità, e lascio che sia la gravità a portarmi sempre più. Non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no, non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no. Metto la gravità, gravità, e lascio che sia la gravità a portarmi sempre più. Non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no, non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, no. Ora invece stiamo parlando di lavoro e di quanto sia ingiusta. Ecco, dicevo, non sbiascicare il microfono, Mars. Abbi un po' di buona educazione. Sì, perché è stato il compleanno di Mars da poco e quindi volevamo fargli gli auguri e Tina ha fatto questa cosa molto molto bella di portargli... Sono molto buoni. Sono buoni, è vero, il festeggiamento. Tortini. Lo posso finire? Certo, cioè io poi sono la peggio, me ne sono mangiato un intero. Ho portato 3 e ne ho mangiato 1. Molto buoni. Vabbè, io su Zero abbiamo fatto a mezzo e... È che quando bevi whisky non puoi non mangiare cioccolato. È vero, è vero. Proprio ma anche difficile. Quando bevi rum. Quando bevi qualsiasi cosa. No, è vero, nei locali quelli seri dove fanno il rum serio ti danno il cioccolatino, esatto, abbinato. Esatto. Quando mangi non puoi non bere. Punto. Vabbè, ogni alcolico ha il suo cibo. Sì. La birra, le patatine fritte. Sì. E la pizza. E la pizza. Che fame. Non hai cenato? No. Ah, io mo vado a cena a casa di amici per un compleanno, quindi tutto a posto, non devo neanche cucinare. Ho pranzato con del pesce spada alla siciliana alle 4 del pomeriggio. Anche io ho mangiato alle 4 oggi. Bravo. Bravo. Però ho mangiato la pasta con salsiccia e funghi. Frega molto a chi ci ascolta. Certo, magari adesso viene fame e preparano qualcosa, che ne sai. Stiamo registrando. Magari c'è qualcuno in chimica. Poi infatti non ci stanno ascoltando, stiamo registrando. Cioè, ormai è andata, vedi, sti cazzi. Comunque bene, sono le 10:20, ragazzi. Passiamo un pezzo, l'ultimo pezzo e chiudiamo. L'ultimo pezzo... Beh, scegliete, sono rimasti questi anche senza... Turi, perché hai portato? Sono rimasti questi senza stanghetta, ragazzi. Come male. Quindi scegliete un pezzo, mettiamo le voti, sono 3 pezzi e siamo in 4. Picchiamoci. Io per Cartone all'inferno in realtà un po' ci sento, c'è anche il danno. A me piace quella canzone. Ma chi non piace quella canzone? Vai. È un pezzone fatto bene, vecchia scuola, che parla proprio di quello di cui stiamo parlando. Mi piace. Scimmie lanciate nello spazio, queste cose. Si riassume tutto con le scimmie lanciate nello spazio. Sì, che poi è una cosa che il danno ripete anche in un pezzo di Artificial Kid. Assurdo, scimmie volanti e macchine del tempo. Cioè anche lì le scimmie volano, sì, capito? Sì, ma lui si autocita. E gli arrivano nello spazio, che dovrebbe andare volando. Sai, scimmie con le ali. Perché mi guardi così mentre parlo? No, in realtà stavo pensando alle autocitazioni del danno. Pensavo mi fai sentire come se stessi dicendo una cagata gigante. No, come quando io guardo Vintro che parla. a una cosa che cercavo di ricordare, non mi ricordo bene. In quella canzone Questi giorni che dice: ah, l'aria si è fatta rarefatta. Che in qualche modo è qualcosa anche un po' connesso con Artificial Kid, se ci pensi. Sì, no? Sì, perché il danno dentro è un complottista, capito? Ma sì. Il danno crede davvero nelle scie chimiche, nei satelliti. Illuminati. Chi ad illuminare? Chi lo sa, non lo so, li si chiede la prossima volta. Quando lo becchiamo a cena di queste serie. Dai, bellazzi. Quindi spariamo Turi. Quindi... e l'altro pezzo, vabbè, i Nohinessi. Ma ce la famo, sono 23, spariamo 2. No, a questo punto allora spariamo Mr. Gemedeiro, sto scusate, abbiamo messo un pezzo americano vero. E spariamo un ultimo americano. Dai, no, e con quello poi... Sì, abbiamo chiuso, cioè, in realtà potremmo salutare adesso e mettere pezzi di salutiamo adesso. Esattamente, quindi dal mondo paranoia è tutto... Paranoia Kid, quindi, Sub Zero, Macchia Nera. Se state male, statevene a casa. Assolutamente. Questa è la cosa più importante. Non fate come noi che usciamo. Esatto. E ci facciamo la radio. Addosso. Perché noi ci tossiamo addosso. E comunque è stato bello, anche stato se bello non siamo in diretta. Il momento in cui sei vissuto. Sì, un attimo che registrato rimarrà per sempre sulle nostre memorie RAM. RAM. Dai, bella lì, Dattina. Ciao, vabbè, da Vintro. Ma sì, davvero? Scusate, ogni volta dobbiamo salutare vabbè, personalmente. Vabbè, dai, una volta faccio io. Cazzo, fatelo anche ma non voi. Te lo facciamo fare sempre. Lo facciamo sempre tutti. Che vuol dire una volta faccio io? Che di solito non lo voglio fare. Ho preso invece. Questo microfono griccia. Forse lo fa apposta perché devo stare zitta. Sembra le vocine rotte della tranvia. Si becca tutte le infamate. Vabbè, raga, comunque secondo me non c'entrano due pezzi, ve lo dico. Buon 5 ascolto. Minuti quello e 3 minuti. Buon ascolto, ve la tagliamo. Ciao da noi. Porta. Vabbè, raga, nel caso ve lo taglio. Ciao a tutti, ciao bella. Non nei paraggi, sempre meno saggi, più cani randaggi, contagi e plagi, disagi, ostaggi, stragi, finti gemellaggi tra i villaggi, aumento dei pedaggi, illusi da sondaggi, veleno negli ortaggi, telefoni e messaggi, pedanti personaggi, pesanti depistaggi, ipocriti equipaggi, coi soliti linguaggi, aspettano che assaggi il loro standard per trarre poi vantaggi, presagi, obbrobrio, un illusorio sballo, squilibrio del manubrio che porta il mezzo in stallo, fallo, rigore, rifiuto il tuo modello, evidenzio non col giallo ma col grigio del cervello, hanno carta per il tuo castello e tanto di cappello, ma scrollati il fardello di cambiare il mondo con la fiaccola e il cartello, qui serve più cultura per spostare un solo singolo tassello. Eh sì che sto bene, qui va tutto bene, ti scrivo cartoline dall'inferno anche se in fondo non mi posso lamentare, c'ho sempre da mangiare e ancora qualche volta ci riesco a ricordare che sì che sto bene, qui va tutto bene, ti mando cartoline dall'inferno anche se in fondo non mi posso lamentare, mi danno da mangiare e finalmente mi hanno tolto tutto il tempo per pensare. Sempre più sveglio, si vive meglio, io non deraglio per l'abbaglio del bersaglio perché è veglio, non basta l'aglio e l'acqua santa contro il diavolo, scontro in inevitabile a quattro occhi su quel tavolo, troppo cosciente per subire ulteriormente, fondamentalmente o fondamente ed evidente, strettamente assente a comizi populisti o indizi così chiari da far ridere i più tristi, poveri cristi drogati di menzogna, teleguidati a vanvera dal dio della vergogna, vince la carogna, impostore più di Giuda, promettono banchetti ma la carne è ancora cruda, schemi poco chiari alla lavagna, solita lagna, il gioco dei denari e l'acqua sporca che ti bagna, dubbi alti come una montagna, vedo chi perde e chi guadagna perché sai la storia insegna. Eh sì che sto bene, qui va tutto bene, ti scrivo cartoline dall'inferno anche se in fondo non mi posso lamentare, c'ho sempre da mangiare e ancora qualche volta ci riesco a ricordare che sì che sto bene, qui va tutto bene, ti mando cartoline dall'inferno anche se in fondo non mi posso lamentare, mi danno da mangiare e finalmente mi hanno tolto tutto il tempo per pensare. Il fumo uccide ma non solo lui, e sii sincero, ma piazzami le scritte anche sul vino che mi bevo, sull'auto con cui giro, sull'aria che respiro, sullo schermo colorato dove attui il tuo raggiro, colpa te ma d'animo sospiro, trema sto sistema perché ti vuole crumiro, sempre più fachiro, mai però passivo, e guai se poi mi blocchi mentre scorre la mia biro, bene molto bene se ancora mi senti come Marco, in preda degli eventi con i sintomi d'infarto, spargo sterco fresco sull'asfalto da un palco, il duello ad armi pari sì, un mitra contro un arco, prima l'embargo poi lo sbarco, si fanno largo decidendo quanto valgo e poi mi iniettano veleno per mandarmi giù in letargo, ma stentano a capire che con l'odio io risalgo. Assurdo, scimmie lanciate nello spazio, esperimenti tipo scienziato pazzo, embrioni congelati, uteri affittati, in nome della scienza, dell'umanità o dei dividendi che andranno smezzati. Dacci tutti i tuoi risparmi, li investiremo e li faremo fruttare nel traffico di armi. Ovviamente solo armi intelligenti da mettere in mano poi a dei perfetti deficienti, zio che tempi. Accapocciate contro il muro e di sicuro tutto ci possa tranne che desta contenti. Non c'è cibo, solo condimenti e non c'è calma, quindi vivo coi nervi scoperti, fra sentimenti finti come le promesse dei governi o come le commesse sorridenti. Tutti fermi qua sotto sta grandine, tanto si sa già, è scritto dai tempi che affonderemo come Atlantide. Eh sì che sto bene, qui va tutto bene, ti scrivo cartoline dall'inferno anche se in fondo non mi posso lamentare, c'ho sempre da mangiare e ancora qualche volta ci riesco a ricordare che sì che sto bene, qui va tutto bene, ti mando cartoline dall'inferno anche se in fondo non mi posso lamentare, mi danno da mangiare, finalmente mi hanno tolto tutto il tempo per pensare. Per pensare. This is the anti-extremist, silence in the religious, who vandalize our dreams using violence to find forgiveness. The unchosen, dying explosions, minding their business, finding frozen. The bodies is open, designs, wrist is. This is spiritually inept. This is my soliloquy, I bet. This is politically correct. If your politics and Molotov hits don't intersect. You see the war, don't convince me. You see the Lord, I see it more as Theodore Kaczynski. You got your knees to the floor, Shiraz and Prince B. Wrapped around the block of C4, pal, you mince me. And now you're blown at using physics. You got us distant and don't condone using mystics to bomb your critics and your opponents, you a bitch.